con Marco Martinelli del Teatro delle Albe per parlare dello spettacolo Va Pensiero al Teatro Argentina dal 13 al 18 novembre. Marco, ben trovato. Ecco, buonasera a tutti. Ci racconti? Va pensiero, è un grido, è un'invocazione, è una preghiera per questi tempi così sempre della nostra Italia, no? Passano i decenni, passano i secoli e questo va pensiero davvero è un cercare di chiamarci tutti all'attività più alta, al pensiero e al risorgimento. È per questo che partiamo da una piccola storia avvenuta, un fatto di cronaca avvenuto nella nostra Emilia-Romagna negli ultimi anni, per ampliarlo e raccontare una vicenda più grande, cioè la vicenda di un paese che deve tenere la testa alta e la schiena dritta. Un fatto di cronaca legato alla corruzione, all'andrangheta, presente in Emilia-Romagna come dappertutto, in tutta Italia, e anche invece un raccontare il tentativo di opporsi a quello che invece sembra dato per scontato, no? Che il nostro sia un paese divorato da sempre dalla corruzione, dal pressapochismo, dal conformismo. E questo è il nostro va pensiero, con tutti gli attori delle Albe, Ermanna in testa, e con un coro polifonico che in ogni città d'Italia in cui andiamo a recitare cambia sempre, ed è un coro di quella terra. Quindi venivamo da Pordenone, dove abbiamo lavorato col coro della Ruda, un bellissimo coro alpino che ha cantato Verdi per noi. E oggi invece qui all'Argentina incontriamo il coro polifonico di Anzio, che con un'antologia di musiche verdiane fa da contrappunto a una vicenda dei nostri giorni. Sì. La prima idea e poi lo sviluppo, raccontaci un po' ed è Siamo andato. partiti, Germanna, da questa vicenda avvenuta a Brescello nei primi anni 2000. Un vigile urbano che si mette contro il proprio sindaco. Di fatto perché vede che ci sono illeciti, c'è del malaffare, la giunta di allora, il sindaco in testa, voleva come accantonare questi aspetti e questo semplice vigile urbano, che aveva la passione anche del giornalista, non ci sta, non accetta questo stato di cose, fino al punto di farsi licenziare dal sindaco. Perde il lavoro pur di mantenere la schiena dritta. Quindi un apologo, direi, così antico e così contemporaneo al quale non si poteva non rispondere. E da lì l'idea mia e di Ermanna, io poi ho scritto il testo e con Ermanna ho condiviso l'ideazione di portare in scena questa vicenda. Il parallelo con l'idea risorgimentale, questo titolo. È che c'è sempre bisogno di risorgimento, non è dato una volta per tutte. Dobbiamo rinascere tutti i giorni come persone e come comunità. Crediamo come Albe che questo valga la pena di farlo oggi. Lo spettacolo ha debuttato quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quindi non è questione di questo o quel governo, è questione dell'antropologia italiana che deve cambiare. È quella riforma morale in cui certi grandi figure che si sono alle spalle gli italiani hanno sempre parlato. In questo senso, che tipo di risposte state ottenendo con lo spettacolo? Ma sempre entusiaste, sempre commosse, poi lo sappiamo, il teatro non parla ai milioni, no? Parla alle centinaia di persone che arrivano. Alla fine si arriva tutti a cantare insieme, va pensiero, perché così finisce lo spettacolo. Dopo aver raccontato tanto nero e tanta negatività, in realtà si arriva a questo canto corale co a luce in sala con gli spettatori e sempre la risposta è alta. Allora, ricordiamo lo spettacolo Va Pensiero di Marco Martinelli, che cura anche la regia insieme ad Ermanna Montanari, dal 13 al 18 novembre al Teatro Argentina. Marco, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, per me è sempre un piacere dialogare con te e con i tuoi ascoltatori. Ciao, alla prossima. A presto, ciao!